Donna, sesso e religione. I nostri antenati del Paleolitico e dell'inizio del Neolitico immaginavano il corpo femminile come una sorta di recipiente magico. Dovevano aver osservato il suo sanguinare secondo i ritmi della luna e il suo miracoloso potere di generare delle creature. Si saranno meravigliati nel vedere che provvedeva al loro sostentamento producendo il latte. Si aggiungano il potere apparentemente magico della donna di indurre l'erezione nell'organo sessuale dell'uomo e la straordinaria capacità del corpo femminile di provare e procurare piacere. E non sorprenderà se i nostri antenati provavano un timoroso rispetto per il potere sessuale della donna. Ne sorprende che i genitali maschili, con il toro e gli altri animali provvisti di corna e zoccoli, simboli della potenza maschile, siano stati anch'essi considerati con rispetto e riverenza, né che l'unione sessuale tra uomo e donna, la fonte della vita, dell'amore e del piacere, rappresentassero già per i nostri antenati del Paleolitico e del Neolitico un importante tema mitico e religioso. Per la verità sorprende invece che l'antico legame tra sessualità e spiritualità sia caduto nell'oblio, o piuttosto che non lo si ricordi a livello consapevole. Perché se riesaminiamo attentamente i miti orientali e occidentali, risulta evidente che ne resti un eco inconsapevole nella maggior parte delle religioni del mondo ancora oggi. In India, il lingam e la yoni, i genitali maschili e femminili, sono tuttora associati al sacro. In Tibet, la famosa frase Om Mani Padme Hum, il gioiello nel fior di loto, contiene più stratificazioni di significato mistico. Riguarda l'unità primaria all'interno di un più ampio insieme di quelle che oggi tendiamo a considerare polarità: luce e tenebre, creazione e distruzione, fuoco e acqua, donna e uomo. In Cina si incontra un'immagine simile, il corpo di diamante è nato dal fior d'oro. In Occidente, nel misticismo medievale, troviamo a somiglianza del gioiello nel fior di loto l'immagine di una goccia di rugiada nella rosa. Persino l'appellativo di spose di Cristo, dato alle monache, e di sposo di madre chiesa, dato al Cristo, sono da ricondurre a una precedente concessione dell'unione sessuale come unione con il divino. Nella Kabbalah, il complesso della dottrina ebraica e esoterica su Dio e l'universo, troviamo innumerevoli riferimenti alla Shekinah, la fonte femminile di saggezza divina, insieme con istruzioni impartite a santi uomini perché cerchino con essa l'unione spirituale. Esistono anche immagini cristiane che riprendono una più antica iconografia in cui erano tenuti in grande onore la donna, il dono della vita e la sessualità. Per esempio, le cosiddette Vierges Ouvrantes, venerate nel Medioevo cristiano, rappresentano il corpo della Vergine Maria incinta in una postura assai simile a quelle delle cosiddette Venere incinte del Paleolitico. Anche le numerose icone medievali e le sculture rinascimentali della Madonna con il Bambino sono discendenti dirette di lontane rappresentazioni della Dea e del suo divino figlio. È uno degli esempi più notevoli e ovvi, se guardiamo attentamente, di una tradizione artistica che risale al Paleolitico e al Neolitico, è un dipinto rinascimentale della Dea Afrodite, riprodotto in The Mythic Image di Joseph Campbell. Degli intensi raggi di luce emanano dalla vulva per poi ricadere a pioggia su un gruppo di uomini. Come già abbiamo visto, ritroviamo pressappoco nello stesso periodo il culto della vulva sacra nelle sculture religiose indiane del XII secolo. A quest'epoca risalgono pure i famosi fregi erotici che ornano un tempio indiano presentato in anni abbastanza recenti in vari libri d'arte occidentali, tra cui The Censors Immortals, edito da Los Angeles Museum of Art. Come le sculture del Neolitico e dell'età del bronzo, cui già abbiamo accennato, queste sculture indiane raffigurano l'unione sessuale come rito religioso. E sebbene questi templi indiani risalgano al periodo in cui già gli invasori ariani o indoeuropei avevano soprapposto molti dei valori della dominanza alle antiche culture indigene caratterizzate dal culto della dea, restano comunque esempi illuminanti di partnership erotica, del dare e prendere il piacere sessuale statico. In questa sede, viste le informazioni che circolano attualmente, desidero sottolineare che quanto queste sculture illustrano nulla ha a che fare con ciò che presumibilmente accade nei culti satanici segreti dei nostri giorni. Che tali culti organizzati esistano o no, il che è oggetto di accanite discussioni, qui non ci interessa. Il punto è che le scene illustrate nei fregi erotici indiani non sono in nessun modo, neanche facendo uno sforzo di immaginazione, atti sessuali sadici e brutali, a differenza del culto segreto occulto del demonio. Per cominciare, queste sculture sottolineano l'atto di dare e prendere il piacere reciproco e non quello di infliggere il dolore unilateralmente. Furono create a immagine della religione e del tempo e del luogo, e come illustrazioni dell'unione sessuale tra divinità ampiamente venerate, non si proponevano di demonizzare o corrompere, ma piuttosto di istruire e ispirare le donne e gli uomini. Queste immagini indiane dei sacri riti erotici probabilmente hanno le medesime antiche radici della tradizione tantrica indiana, cui abbiamo già accennato, in cui il rito centrale è Maituna, l'unione sessuale. Il rito si prefigge di risvegliare Kundalini, l'energia divina, talvolta esplicitamente identificata con Sakti, il potere creativo della dea. Poiché gli scritti tantrici sono sepolti sotto strati accumulati dalle successive culture della dominanza, sia l'induista sia la tibetana, in essi l'enfasi è posta sul maschio. Affermano infatti che attraverso Maituna l'uomo raggiunge l'unione con il potere primario, generatore di vita, della grande madre. Ma se Maituna è la via per l'unione con il divino indicata all'uomo, ciò vale anche per la donna. Poiché è attraverso il corpo femminile, attraverso la sua eccitazione e il suo piacere sessuali, che l'energia erotica della dea viene evocata. Nella pratica tantrica, l'uomo si fonde con il divino dando il piacere sessuale alla donna e contribuendo così a mantenere l'esperienza estatica in entrambi. Ma il corpo femminile è il recipiente divino nella simbologia occidentale, il Santo Graal, il sacro calice. Un altro aspetto affascinante e solitamente ignorato dello yoga tantrico riguarda il controllo delle nascite. Se il potere femminile di generare era venerato, anzi forse proprio perché era venerato, la pratica tantrica dava indicazioni per evitare il concepimento casuale. Infatti, il sesso tantrico esclude esplicitamente ed esclusivamente la fecondazione. Il suo unico fine è quello di consentire a donne e uomini di sperimentare, mediante prolungate e intense sensazioni erotiche, l'esperienza spirituale dell'estasi. In proposito, è interessante notare che in origine, nell'iconografia indiana, il segno dell'infinito stava per unione sessuale, il due che diventa uno, composto da due piccoli cerchi affiancati, uno in senso orario e l'altro in senso antiorario, ma non l'uno sull'altro. Simboleggiava l'eguaglianza fra femminile e maschile che porta alla totalità o all'infinito. Ma un indizio importante per comprendere che cosa accade nella nostra preistoria è il modo in cui in seguito l'iconografia indiana abilmente portò l'enfasi sul maschile. Il simbolo dell'infinito viene riferito a due divinità maschili che sono, ed è questo un elemento rivelatore, i figli gemelli della primitiva dea Saranio. Nei prossimi capitoli ritorneremo più volte sui frutti di questo capovolgimento e di questa cooptazione degli antichi simboli religiosi. Vedremo anche che tutto ciò rientrò in un ampio processo di revisione dei miti, con profonde implicazioni politiche che ribaltarono molti degli antichi miti e molte realtà sessuali e sociali. E vedremo in seguito che alcuni degli indizi più straordinari a riprova di questo processo di revisione dei miti sono forniti non dalla religione orientale, ma dal nostro retaggio occidentale. Per fare un esempio soltanto, c'è nell'Antico Testamento uno scritto che in qualsiasi altro contesto verrebbe immediatamente riconosciuto per quello che è un poema dell'amore erotico. Nel Cantico dei Cantici, o Canto di Re Salomone, leggiamo di una bellissima Sulammita, la sfodelo della pianura, il giglio degli acquitrini, le cui labbra sono un filo di scarlatto, che lo sposo decanta, cerbiattini le tue mammelle, gemelli di gazzella, tra i gigli alla pastura. Ancor più esplicitamente sessuali sono le dichiarazioni appassionate della donna. È bello i tuoi profumi respirare, il tuo nome è un unguento penetrato e il mio sacchetto di mirra, l'amico mio, pernotta tra i miei seni. L'amato mio toglieva dal buco la sua mano e le mie cavità muggivano per lui. Per aprire al mio amico io mi alzavo e la mia mano mirra colava dalle mie dita la mirra fluida sul chiavistello che impugnavo. Io del mio amato sono, sento il suo desiderio su di me. Che cosa ci fa, potremmo chiederci, questo poema erotico nella Bibbia, il più sacro dei testi religiosi occidentali? Gli studiosi delle religioni hanno spesso tentato di spiegare che il Cantico dei Cantici è un simbolo di Yahweh che prende Israele in sposa e dunque dell'amore di Dio per il suo popolo. Ma né Dio né Yahweh sono mai menzionati. Per contro, in versetti quali la tua vulva è un curvo alambicco, di odoroso liquore non è mai secca, una manata di grano in un roseto ti giace in mezzo agli inguini, celebrano il corpo femminile. E in uno dei passaggi più famosi, i fiori spuntano sulla terra, il tempo del cantare è vicino, la voce della tortora vaga per le campagne. Si celebra il ritorno della primavera, un tema fondamentale, come vedremo nella religione del Paleolitico e del Neolitico. Gli studiosi della Bibbia ci dicono che l'Antico Testamento fu ampiamente rimaneggiato per centinaia di anni dalle varie scuole di sacerdoti e scrittori che cercarono di adattare il testo alla loro norma teocratica. Sappiamo pure che, sebbene questa raccolta di scritture contenga molti importanti insegnamenti etici, fin troppo di frequente parla delle donne come di perverse tentatrici e o come di una proprietà sessuale che va severamente controllata dagli uomini. E allora, perché mai gli uomini, che a più riprese rividero l'Antico Testamento, vi inclusero un inno che celebra una sessualità femminile sacra ed estatica? Non credo proprio che l'inclusione del Cantico dei Cantici nell'Antico Testamento sia stata una svista, come forse è vero per altri passaggi biblici in cui si ritrovano indizi che alludono a più antiche forme di culto, per esempio le veementi declamazioni di Geremia contro la perdita di fede e contro il ritorno al culto della regina del cielo, in cui si scorge un'allusione diretta al culto della dea. Ritengo piuttosto che questo poema erotico, o più correttamente questo insieme di poemi, fu inserito nella Bibbia proprio perché gli antichi inni sacri, che celebravano la sessualità, l'amore e il ritorno della primavera, come gli inni sumeri alla dea Inanna, che esamineremo in seguito, avevano ancora una forte presa sull'immaginazione popolare. In altri termini, credo che coscientemente o con maggiore probabilità inconsciamente, chi decise di includere nella Bibbia il Cantico dei Cantici non fece altro che servirsi del venerando strumento politico della cooptazione. Incorporando passaggi frammentari e già annacquati associati alle più antiche tradizioni del culto della dea e del sesso sacrale nelle scritture sulla divinità maschile trascendente che governava il suo gregge terreno nello stesso modo in cui un marito governava la moglie, alludendo per esempio allo sposo regale e a una donna del suo harem invece che alla dea e al suo sposo divino, in effetti cooptavano, ovvero trasponevano, questi passaggi. E tale processo si fece sempre più marcato, poiché le varie generazioni di autorità religiose, ebraiche prima e cristiane poi, continuarono a reinterpretare il significato del Cantico dei Cantici per adattarlo meglio ai miti e alle realtà che volevano imporre. Il sesso, la Chiesa e i trovatori. Esamineremo ulteriormente in seguito questo processo di cooptazione, come pure molti altri indizi contenuti negli scritti religiosi dell'Occidente, di un'epoca in cui la sessualità era sacra. Ma per concludere questo capitolo e passare rapidamente dal rituale all'amore romantico, desidero concentrare brevemente l'attenzione su un'altra prova inconfutabile, anche se di solito ignorata, dell'esistenza di un'epoca in cui i piaceri del sesso erano considerati sacri e non peccaminosi, l'estrema degradazione del piacere sessuale compiuta dalla Chiesa cristiana. Come già abbiamo visto, il dogma di Agostino, secondo cui il sesso è intrinsecamente e per l'eternità peccato, divenne una delle principali colonne dell'alleanza politica fra cristianità e imperatori romani. Ma perché mai i padri della Chiesa ritennero necessario assumere una posizione così estrema? Perché erano tanto irremovibili sui mali del sesso? Perché condannarono questo che è il più naturale degli atti e il più naturale dei piaceri per proclamare con Clemente di Alessandria che anche in seno al matrimonio il sesso, non esclusivamente volto alla procreazione, è un torto fatto alla natura? Anche a questo gli studiosi hanno trovato delle risposte. Alcuni affermano che quegli uomini, i quali praticavano un'astinenza sessuale imposta e spesso mortificavano brutalmente le loro carni, erano talmente frustrati sessualmente da presentare una sorta di squilibrio emotivo e mentale, ma anche ammettendo che in tanti praticassero l'astinenza sessuale, e ci sono ampie prove che per molti non era questa la regola, resta aperta la questione del modo in cui prese avvio tutto quanto. Per certo non si spiega come mai i padri della Chiesa avrebbero considerato necessario minacciare quanti disobbedivano ai loro comandamenti sul sesso, non solamente con gravi castighi in terra, ma anche con il più doloroso dei castighi eterni. Niente meno che la tortura eterna nel fuoco e nello zolfo dell'inferno. Anche in questo caso, per una migliore comprensione dell'atteggiamento isterico contro il sesso e la violenta repressione di esso da parte della Chiesa, è necessario collocarsi in un più ampio contesto. E con ciò non intendo soltanto la politica dell'epoca, in cui gli insegnamenti di Gesù improntati all'amore, alla tolleranza e alla pace furono cooptati da una Chiesa ortodossa, istituzionalizzata, rigidamente dominata dal maschio, gerarchica e fin troppo spesso violenta. Intendo la vestigia ancora vive di una religione occidentale molto più antica, che giudaismo, cristianesimo e islamismo, dopo numerose e violente persecuzioni, alla fine sradicarono e sostituirono. Come ha documentato Rittray Taylor nel suo ormai classico Sex in History, le persecuzioni degli eretici da parte della Chiesa, comprese la tortura e la condanna al rogo di centinaia di migliaia e secondo talune stime milioni di donne accusate di stregoneria, non erano a caso. Infatti, per lo più la Chiesa concentrava i suoi strali su quelle sette eretiche che tenevano in grande onore le donne, davano loro posizioni di comando e o veneravano una divinità femminile. E spesso la Chiesa accusava queste sette di indulgere in pratiche sessuali immorali. Voglio qui suggerire che la condanna morale della sessualità da parte della Chiesa era ben più che un vezzo psicologico. Faceva parte integrante della strategia altamente politica della Chiesa per imporre e mantenere il controllo su una popolazione che ancora vagamente ricordava tradizioni religiose molto più antiche e a esse si aggrappava. Se la Chiesa voleva considerare il suo potere e affermarsi come l'unica vera fede, diventava assolutamente inaccettabile il persistere di miti e rituali di un sistema religioso più antico e solido, in cui la dea e il suo divino figlio o consorte venivano venerati. Le donne erano sacerdotesse e l'unione sessuale dell'uomo e della donna aveva una forte dimensione spirituale. Questi resti andavano sradicati a qualunque costo, mediante la cooptazione o la soppressione. Così la Chiesa prese posizione. La sessualità si tinse di peccato, a meno che gli uomini non si prefiggessero come fine la procreazione, che rendeva l'atto ovviamente necessario. Allora il dio Toro, che nell'antica religione era il figlio, il consorte della dea, divenne il diavolo con tanto di corna e zoccoli dell'iconografia cristiana. E il sesso, un tempo dono sacro della dea, divenne insieme con la donna la fonte di ogni male della carne. Non vogliamo sicuramente dire che alla Chiesa cristiana vadano addossati tutti i nostri guai. L'associazione tra sesso, predominio e controllo maschile iniziò molte migliaia di anni prima che il cristianesimo diventasse la religione ufficiale dell'Occidente. In realtà, può anche darsi che almeno in qualche caso la condanna cristiana della licenziosità sessuale derivasse dall'allora troppo consueta associazione tra sesso, conquista violenta e dominazione. Ma allora, esattamente come oggi, la Chiesa non condannò l'associazione tra sesso, conquista e dominazione, ovvero la sua associazione con l'infliggere dolore sadomasochistico. Per contro, condannò il piacere sessuale. E questa condanna, davvero innaturale, del sesso e gli estremi terribilmente sanguinosi cui condusse, acquistano un senso solamente se li guardiamo da questa più ampia prospettiva. Infatti, possiamo allora vedere che un fattore importante era la soppressione da parte della Chiesa medievale di tutti i resti di una più antica tradizione religiosa che associava la sessualità e anche la donna, non solo l'uomo, allo spirito e al divino. Se riesaminiamo il corso della storia sociale e sessuale da questa prospettiva, finiamo con lo sbrogliare anche un altro mistero apparente. Perché mai la Chiesa ritenne necessario svilire tanto la donna al punto da impartire la benedizione papale all'affermazione del Malleus Maleficarum, il manuale utilizzato dalla Chiesa per la caccia alle streghe, secondo cui la donna è per natura più peccaminosa perché è più carnale dell'uomo? Al di là di questo, ci aiuta a comprendere meglio come mai i papi davano la loro benedizione alla tortura e al rogo di innumerevoli donne condannate per immaginari delitti sessuali, compreso l'accoppiamento col diavolo. Infatti, se altri fattori stavano dietro la caccia alle streghe, compresa la sostituzione delle tradizionali guaritrici donne con medici maschi preparati dalla Chiesa, era proprio il potere sessuale femminile a essere venerato e santificato nella più antica religione. Ma nonostante le condanne fanatiche del sesso e la violenta persecuzione delle donne da parte della Chiesa, la caccia alle streghe altro non era, i semi delle antiche forme di culto erano troppo profondamente allignati nei più profondi strati della cultura europea per essere completamente sradicati. Pertanto, durante il Medioevo, quando Auschwitz e la Chiesa furono costruite le grandi cattedrali d'Europa, tutte queste magnifiche strutture cavernose furono, come Notre Dame de Chartres, dedicate a Nostra Signora, la Santa Madre, il che consentì ai popoli d'Europa di conservare almeno in qualche forma l'antico culto della Dea. Sempre durante il Medioevo, in quello stesso sud della Francia, in cui si venerava nelle sacre grotte del Paleolitico il potere sessuale della donna, fiorì la poesia dei trovatori e delle tourberies, i cui canti di amore e cortese glorificavano la donna in quanto ispirazione spirituale per l'uomo e celebravano l'amore erotico tra donna e uomo. Nei loro canti d'amore, i trovatori e le trouberies celebravano un amore tra donna e uomo che era al di fuori del vincolo matrimoniale e pertanto non controllato dalla Chiesa con le sue rigide leggi sul matrimonio e la proibizione del divorzio. In alcune liriche, in particolare le più tarde, questo amore romantico era casto, cioè era un amore non consumato sessualmente. Ma in molti dei canti, in particolare quelli scritti prima delle crociate contro gli albigesi del sud della Francia, le uniche crociate di cristiani contro altri cristiani, le liriche dei trovatori e delle trouberies sono chiaramente sessuali. Non c'è l'obbligatoria proclamazione della castità dei poeti più tardi. In proposito, i canti delle trouberies o poetesse sono di particolare interesse. Come scrivono Bonnie Anderson e Judith Zinsser, le loro liriche spesso implorano sincere dichiarazioni d'amore, rimpiangono possibilità perdute e si deliziano nell'anticipazione della consumazione della passione. E uno degli aspetti più interessanti delle liriche dei poeti è che cantano un amore in cui a scegliere è la dama e non il cavaliere, il che è ben lontano dai costumi di quell'epoca, in cui gli uomini, cavalieri compresi, d'abitudine violentavano le donne e in cui le ragazze erano d'abitudine date in matrimonio dai padri, senza aver voce in capitolo. Come ben si attagliava ai tempi e alle circostanze delle loro storie d'amore, di solito di un cavaliere con la sposa di un altro, i canti d'amore del trovatore e delle trouberies sono spesso carichi di melanconici lamenti e hanno un tragico finale. Ma il loro valore principale sta nella celebrazione delle donne e dell'amore romantico e il corteggiamento rituale tra una nobile dama e l'amato da lei prescelto. Nei termini dell'antica religione si trattava sicuramente di una versione addomesticata di miti arcaici sulla sacra unione della dea con il suo divino partner sessuale, ma nei termini della vita medievale era una sfida radicale alle norme vigenti. Per la verità, l'ideale trobadorico di una umanità maschile più gentile, da cui deriva il termine gentleman, era di per sé una violazione delle norme vigenti. Ed è per questo ideale di gentilezza, persino di riverenza nei confronti delle donne e di un amore romantico e altamente ritualizzato tra donna e uomo che presenta un forte elemento erotico e insieme un forte elemento spirituale, che i trovatori sono ancora ricordati. È un'eredità importante questa che la poesia trobadorica ci ha lasciato a dispetto della condanna dei piaceri del sesso formulata dalla Chiesa. Ed è un'eredità che, come si è visto, sgorga da radici molto più antiche, da un tempo in cui la sessualità era associata al sacro invece che al profano e all'osceno. Ma prima di imbarcarci in un'esplorazione più approfondita di queste radici preistoriche, nel prossimo capitolo compiremo un viaggio a ritroso, ancor più lontano nel tempo, agli albori della nostra avventura umana sulla Terra. Perché se vogliamo muoverci verso una sessualità e una spiritualità basate primariamente sulla partnership e sul dare e prendere piacere, invece che sul senso di colpa, la dominazione e il dolore, allora è importante comprendere meglio la storia più antica della nostra specie e, altrettanto importante, la storia del sesso medesimo. Riti animali e scelte umane, le radici della sessualità, della dominanza o della partnership. Forse noi non ne siamo consapevoli, ma il nostro modo di considerare il sesso è stato influenzato da quanto ci è stato insegnato sulle nostre origini sessuali. Prendiamo per esempio il popolare cartoon del cavernicolo con la clava che si trascina dietro una donna afferrandola per i capelli. In poche battute divertenti, ci racconta che da tempi immemorabili per gli uomini il sesso è violenza e le donne sono oggetti sessuali passivi. In altri termini, ci insegna che il sesso, il predominio maschile e la violenza sono fatti della stessa pasta e anche sotto la nostra vernice di civiltà le cose stanno ancora esattamente così. È il quadro della sessualità che ci dipingono anche alcuni sociobiologi. In un gergo ampiamente derivato dall'economia capitalistica, scrivono che i maschi cercano di proteggere il loro investimento parentale combattendo i loro concorrenti sessuali e promuovendo con aggressività il loro successo riproduttivo. Anche qui i maschi sono attivi e le femmine passive. A dire il vero, il grosso della discussione riguarda i maschi, e specie negli scritti divulgativi l'enfasi è stata posta sul sesso, la violenza e il predominio maschile. Questo genere di letteratura si occupa prevalentemente di animali piuttosto che di esseri umani, ma nell'insieme si argomenta che c'è possibile dedurre i fondamentali dell'accoppiamento e della sessualità umani dall'osservazione degli animali, in quanto, presumibilmente, i nostri comportamenti sono determinati in modo simile. Questo approccio solleva numerosi problemi. Per cominciare, mentre noi esseri umani ovviamente condividiamo parecchi tratti animali, siamo per altri versi e di non poco conto differenti, addirittura unici. Per non ricordare che poche fondamentali differenze, citeremo il ruolo molto maggiore che l'apprendimento svolge nel comportamento umano, l'importanza assolutamente unica della comunicazione simbolica, dal linguaggio all'arte alla scrittura, la capacità infinitamente superiore degli esseri umani di costruire strumenti e usare delle tecnologie per modificare l'ambiente e perfino se stessi, e soprattutto l'importanza enorme che la cultura e l'organizzazione sociale hanno nel dare una forma ai tratti e ai comportamenti umani, compresi la sessualità e i comportamenti relativi all'accoppiamento. Anche al di là di tutto ciò, si sono posti gravi problemi di natura metodologica, in particolare nella sociobiologia umana e in quello dei primati. Per esempio, è prevalsa una tendenza a concentrare l'attenzione sulla competitività piuttosto che sulla collaborazione e sull'aggressività piuttosto che sull'affiliazione, sebbene entrambi i modelli siano evidenti nella maggior parte delle specie. Come scrive Franz De Waal in Peacemaking Among Primates, a partire da Darwin, i riflettori biologici si sono puntati sull'esito della competizione, chi vince e chi perde. Ma come l'autore sottolinea, quando si parla di animali sociali, questa è una semplificazione eccessiva e temibile, poiché la collaborazione è altrettanto se non talvolta più importante. Un problema fondamentale dunque è costituito dai tipi di comportamenti che vengono studiati e messi in rilievo. Un altro riguarda quali animali studiare e descrivere. Per esempio, si è fatto un gran parlare dei cosiddetti stupri fra gli oranghi, mentre ben poco si è detto dei tamarini, presso i quali praticamente è assente l'aggressività tra maschi e femmine. L'accoppiamento è sia monogamico sia poliandrico, cioè di una femmina con più di un maschio, e i maschi adulti partecipano ampiamente alla cura dei piccoli. Non che io voglia affermare la mancata importanza o utilità dello studio degli animali. Offre informazioni affascinanti sulla sorprendente variabilità dei comportamenti e delle organizzazioni sociali degli animali, compresi i loro modelli di accoppiamento e le loro preferenze sessuali eccezionalmente variate. Credo anche che per certi versi l'osservazione dei comportamenti e delle organizzazioni sociali degli animali possa aiutarci a capire meglio dove ci troviamo e quindi dove possiamo andare. Ma dico questo per motivi diversissimi da quelli che solitamente vengono invocati. Credo che non sia utile e neppure scientificamente corretto prendere un dato comportamento e un modello di organizzazione sociale degli animali per spiegare e di fondo giustificare determinati comportamenti umani o modi di organizzare la società umana come fossero naturali e pertanto implicitamente non evitabili. Ma come esporrò in questo capitolo, lo studio degli animali è utile nella misura in cui ci aiuta a esplorare le possibili origini delle due forme di organizzazione sociale di cui abbiamo discusso, Il modello della partnership è quello della dominanza. E può anche aiutarci a comprendere meglio il ruolo importante giocato dal dolore e dal piacere nell'evoluzione biologica e culturale, ruolo che, come vedremo, è significativamente connesso all'evoluzione della sessualità in generale. Desidero chiarire che qui uso il termine evoluzione non nel senso in cui lo usano i biologi per spiegare come una data specie si è sviluppata o evoluta, ma nel senso molto più ampio di evoluzione o storia del nostro pianeta. Di conseguenza uso il termine evoluzione con riferimento ai cambiamenti verificatisi nel tempo a tutti i livelli, dal molecolare al cosmico. In altre parole parlo di evoluzione da una prospettiva sistemica, quella che segue la tradizione degli scienziati sistemici provenienti da varie discipline. Come molti di questi studiosi, anch'io mi interesso al movimento evoluzionistico verso una maggiore variabilità, complessità strutturale, integrazione funzionale e flessibilità comportamentale, con la differenza che a me interessano in particolare due aspetti chiave di questo movimento: lo sviluppo della sessualità e della consapevolezza. Se consideriamo l'evoluzione della vita sul nostro pianeta, vediamo che le primissime forme erano fondamentalmente asessuate. La riproduzione era una semplice questione di divisione e di moltiplicazione. Prima la divisione della cellula in due e poi la moltiplicazione esponenziale del medesimo processo automatico. È solo più avanti che troviamo lo sviluppo dell'accoppiamento sessuale tra femmine e maschi, che rende possibile la formazione di nuove combinazioni di geni diversi ereditati da ciascun genitore. Ciò fornì l'opportunità per una variazione ben più ampia tra la prole e a sua volta offrì molte più possibilità di adattamento all'ambiente. In altri termini, di creatività, variabilità e cambiamento evolutivi. In definitiva, se consideriamo l'evoluzione un colossale esperimento creativo di cui noi esseri umani siamo uno degli ultimi più sorprendenti risultati, vediamo uno scenario straordinario in cui l'evoluzione del sesso e della consapevolezza ha grandissima importanza. Perché tra la comparsa di semplici organismi unicellulari 3 miliardi e mezzo di anni fa e quella 65 milioni di anni fa dell'ordine dei primati cui noi umani apparteniamo, assistiamo al dispiegarsi della vita nel passaggio da gocce statiche di materia a creature sempre più complesse, capaci di strisciare, volare, camminare e in epoca più recente di costruire strumenti, di parlare, di essere acutamente consapevoli di sé, forme di vita dunque capaci non soltanto di unirsi alla natura nell'alterare l'ambiente fisico, ma anche mediante la fenomenale capacità umana di apprendimento, di modificare se stessi e le strutture sociali in modo sostanziale. Inoltre, se consideriamo questo movimento verso la complessità, l'integrazione e la flessibilità come uno dei temi importanti nell'evoluzione della vita su questo pianeta, vediamo che l'accento abitualmente posto sulla sopravvivenza del più adatto a livello divulgativo, viene abitualmente interpretato come più aggressivamente competitivo dal punto di vista sessuale e non solo. È più indicativo dei valori e dell'organizzazione sociale predominanti che non dell'evoluzione. Vediamo inoltre che nel grandioso esperimento planetario che corrisponde all'evoluzione della vita su questa Terra si è verificato un certo numero di salti quantici. La comparsa della vita e poi del sesso costituirono due di questi salti, mutamenti straordinari e impressionanti nella storia del nostro pianeta. Altrettanto impressionante fu la comparsa approssimativamente 250.000 anni fa della specie umana, complessa e flessibile in modo assolutamente unico, che comportò importanti cambiamenti, non solamente nell'evoluzione della vita, ma anche nell'evoluzione sia della sessualità, sia della consapevolezza.